il nome tecnico da un punto di vista normativo è accordo quadro globale, di fatto si tratta di affidare un servizio pubblico che la legge affida in esclusiva alle province e nel nostro caso a Bologna, alla città metropolitana, che è quello della manutenzione di tutte le strade provinciali a imprese private, al posto che gestirlo direttamente con lavoratori pubblici coordinati appunto all'interno della città metropolitana. Quindi si tratta essenzialmente di questo, è una cosa che per carità è assolutamente legittima da un punto di vista normativo, quello che ci preoccupa molto è il riflesso che c'è per i cittadini da una parte e per i lavoratori dall'altra. Voi sottolineate che lo scopo delle imprese private è quello di fare profitto e quindi potrebbe essere penalizzata la sicurezza? Sì, la preoccupazione è questa, racconto un aneddoto giusto per farmi capire. Quando ho iniziato a occuparmi di questo ente della città metropolitana di Bologna, ho iniziato a frequentare i cantonieri, che sono appunto quelli che svolgono oggi questa attività, frequentandoli più che sentirmi chiedere aumenti retributivi o aumenti o miglioramenti della loro condizione, esprimevano la preoccupazione rispetto alle difficoltà che riscontravano per fare il loro servizio, perché tutti si rendono conto che la chiusura di una buca piuttosto che il mantenimento del verde che invade gli assi stradali, piuttosto che la pulizia delle cunette o delle cadute o dei ponti, determina direttamente la sicurezza stradale del territorio. Queste persone sono persone che sono sul territorio, conoscono a menadito metro per metro quel territorio e sanno che se non viene fatto bene quel lavoro lì, la sicurezza stradale chiaramente diventa davvero difficile garantirla. Questo naturalmente a fronte del fatto che hanno un patrimonio di competenze e di conoscenze che è maturato ovviamente nel corso di decine di anni in alcuni casi, ma in altri di pochi anni, perché era in corso un ricambio generazionale di questo gruppo di lavoratori, hanno fatto assunzioni fino a fine novembre. Questo naturalmente viene garantito appunto da lavoratori che conoscono metro per metro quel territorio. Un'impresa privata giustamente lavora sulla base di un capitolato che stabilisce che cosa deve fare e a quale costo, e rispetto a quel capitolato. Non ha nessuna relazione, diciamo, rispetto allo scopo finale che è la sicurezza stradale. E questi lavoratori invece ce l'hanno e come, e ne portano anche la responsabilità diretta, perché è una responsabilità che la città metropolitana porta da un punto di vista normativo. E quindi la preoccupazione è che effettivamente si limiti in futuro a rispettare un capitolato, una serie di punti che dicono che cosa si deve fare e a quale costo, ma si smarisca il senso finale che è quello della sicurezza stradale. Preoccupazione che peraltro, come dire, non è che nasce dal nulla. L'attuale assetto di quel servizio vede già una parte di quelle attività fatte da altri, perché vorrei ricordare a tutti che in conseguenza alla scelta di abolizione delle province, che poi non si concluse con il referendum costituzionale, quel tipo di servizio lì, come tutte le altre attività fondamentali svolte dalle province, sono state messe in ginocchio innanzitutto come numero di lavoratori, per cui una quota dei lavori che una volta, fino al 2016, venivano fatti direttamente dai cantonieri della città metropolitana, in realtà sono già fatte da ditte esterne, ma ci si scontra proprio su questo elemento, un elemento relativo al fatto che quelle ditte esterne si muovono sulla base di un capitolato e dei finanziamento e di un costo. Si è già sperimentato per esempio sulla manutenzione del Verdi di essere molto in difficoltà a garantire lo stesso livello di qualità per tagliare i rami che invadono gli assi stradali, pulire i bordi delle strade dalle erbe alte e quant'altro, a un costo identico. Il costo è enormemente maggiore e spesso non è stato nemmeno finanziato, con la conseguenza che tutti i cittadini dell'area metropolitana avranno potuto vedere di un peggioramento della qualità di quella sicurezza stradale. In un comunicato voi segnalate che appunto un tentativo, una sperimentazione di questa modalità fu già appunto tentata in passato, ma poi la città metropolitana è tornata sui suoi passi. Sì, esattamente, fu fatta un'esternalizzazione totale, ma non su tutta l'area metropolitana, solo su una parte, si tornò sui propri passi proprio a fronte delle considerazioni che facevo prima, ma attenzione, si poté farlo perché nel frattempo ovviamente, siccome tutto il resto dell'area metropolitana veniva gestita invece con proprio personale, quel personale c'era, rimaneva, ma in un caso di un'esternalizzazione totale, ed è l'altra preoccupazione, quella lato lavoratori di cui ti parlavo all'inizio, è chiaro che si va verso alla fine la perdita di tutto quel patrimonio di conoscenze, di competenze di tutti quei lavoratori che dovranno obbligatoriamente smettere di fare quel mestiere e farne un altro, tra l'altro con una grande domanda che è quella dei costi, perché è chiaro che se come con le prime formazioni che ci danno hanno intenzione di mantenere quei rapporti di lavoro, e vorremmo anche vedere, è chiaro che continuano a pagare dei lavoratori per fare altro e per il loro lavoro pagano qualcun altro, e quindi secondo noi ci sarà sicuramente un'esplosione dei costi, e questo naturalmente pone anche preoccupazioni sulla possibilità di mantenere nel tempo il fatto che tutti questi lavoratori vadano a fare altro. Questa è una preoccupazione molto forte, sentita anche molto fortemente da quei lavoratori, ma ripeto, anche per quei lavoratori in questo momento la preoccupazione primaria è che fine fa la sicurezza stradale delle strade provinciali.